America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The ceasefire in southern Syria is holding. Now, the plan was agreed and was announced Friday at the G20 summit after President Trump met with Russian President Vladimir Putin. Avete sentito? Cessate il fuoco nella Siria sud-occidentale. Questo è stato uno dei risultati più importanti, dovendo fare un bilancio, del vertice di Amburgo, del G20 del weekend scorso. Devo dire, spesso ci sono molte critiche che arrivano nei confronti di questi incontri multilaterali. Si dice che questi leader si incontrano, chiacchierano, però poi alla fine non si conclude nulla. Ebbene, in questo caso si è concluso qualche cosa, almeno dal punto di vista di Donald Trump c'è un passo in avanti importante. Si è recuperato un dialogo concreto con la Russia su un terreno che aveva, come dire, creato enormi tensioni fra Washington e Mosca, e cioè il terreno del conflitto civile siriano. E questo non è un elemento da poco, anche perché quasi in coincidenza col cessate il fuoco di ieri notte, che è partito ieri alle 9 di sera, almeno dal punto di vista formale ancora abbiamo notizie, è stato rispettato dappertutto, ma l'accordo politico è stato rispettato. Ecco, al di là di questo c'è stata anche la caduta ieri di Mosul. Anche questo, beh, è un fatto importante, perché l'ISIS è stato sconfitto in una delle sue città più importanti. A questo punto manca Raqqa, manca la capitale, però diciamo che sul fronte medio orientale, ecco, alla fine di questo G20 di Amburgo, beh, ci sono due notizie che ci lasciano in qualche modo sperare. Per il resto, devo dire, per Donald Trump non è che ci sono stati molti successi, anzi, c'è stata una notizia che mi ha davvero preoccupato molto, e cioè il fatto che gli Stati Uniti siano rimasti completamente isolati sul fronte dell'ambiente. 19 paesi hanno aderito all'accordo sull'ambiente di Parigi, gli Stati Uniti sono gli unici che non hanno firmato. Perché? Vi dico che mi ha colpito molto questa cosa. Perché? Beh, intanto gli Stati Uniti sono il paese leader del G20, l'hanno creato loro, sono sempre stati al centro dell'attenzione, hanno sempre cercato di creare, come dire, un dialogo fra i paesi, erano semmai loro che facevano da mediatori. E invece in questo caso, non solo non ci sono riusciti, ma ci hanno fatto davvero, gli Stati Uniti di Trump, una pessima figura. E dunque credo che l'amministrazione Trump dovrà riflettere su quanto è successo. Perché? Perché avevano escogitato una strategia per cercare di evitare che alcuni paesi aderissero, in modo da non essere soli. Avevano esercitato pressioni sulla Turchia, per esempio, sulla stessa Russia, su altri paesi che non erano felicissimi dell'esito degli accordi di Parigi, perché avrebbe imposto in qualche modo così l'erogazione di investimenti per cambiare certe cose sul fronte ambientale. E invece nessuno di questi paesi ha poi seguito questo invito americano. Anche la Cina, che sembrava a un certo momento non volesse lasciare gli Stati Uniti da soli per non umiliarli. E invece alla fine 19-1. Questa è una svolta, vi dicevo, davvero molto importante. Donald Trump ha avuto questo suo incontro con Vladimir Putin, e anche lì, avrebbe dovuto parlare in modo più aggressivo di quello che è stato il Russiagate. Invece ne hanno parlato a lungo, però alla fine Trump non è entrato in discussione aggressive nei confronti di Putin, nel senso che si è accontentato delle spiegazioni che gli ha dato il leader russo, e lì si è fermato, e questo non è stato accolto molto bene di nuovo a Washington. Ecco, detto tutto questo, Donald Trump tornerà per la terza volta in Europa, ed è a questo che voglio dedicare la copertina della settimana, e cioè al rientro di Trump per la visita in Francia in occasione della festa del 14 luglio, della presa della Bastiglia, della Rivoluzione francese. E perché dedico la copertina a questo evento? Perché secondo me Macron, il presidente francese, ha capito che può diventare un interlocutore privilegiato degli Stati Uniti. La Germania, diciamo, ha un rapporto con la Merkel teso con Donald Trump. La Gran Bretagna ha votato per Brexit e dunque ormai punta a un rapporto bilaterale. Non resta che la Francia svolgere il ruolo di ponte fra Washington e Bruxelles su quel fronte transatlantico, che comunque resta centrale per il futuro dei nostri destini. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!